24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo qui alle 6:32 minuti, ci siamo anche oggi, cari ascoltatori, buongiorno, in diretta fino alle 9 e ci potete seguire anche su Twitter 24 mattino oppure Alino Milan, sono io, c'è il nostro Peter Bescapeli in regia, il nostro alpino, c'è il nostro Alessandro Longoni oggi sbrandato in redazione, pronto, oggi me la alza lui, questa saracinesca pesanterrima. Il nostro bar di Radio 24 che è aperto ufficialmente. Non rispondo a nessuna domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Fine. Ma perché non rispondi? Un caffè si può avere. Il caffè volentieri a tutti quanti. Volentierissimo il caffè, allora lo offriamo oggi, anzi paga Nicole Minetti come sempre, a Mario Adinolfi. Quante volte ti abbia già svegliato, Mario? Poi... siamo alla terza, poi... la terza stilla ho messo oggi. La terza, mamma mia, Juventino, gobbo maledetto. Non è un riferimento casuale. Va, vabbè, diciamo ma Mario Adinolfi, eccolo qua, deputato del Partito Democratico, collega. Dove vai in onda poi? Su? Diciamo, facciamoci un po' di pubblicità. Ah, facciamo pubblicità. Alle 8 sono in onda su Radio Yes. Radio Roma, la radio yes. Della città di Roma. Oh, Radio Yes, alle 8. Ci fa concorrenza. Citofonare Adinolfi. Giusto, citofonare Adinolfi. Saluto anche il grandissimo vignettista Vincino. Buongiorno e ben svegliato. Buongiorno. La satira è, non si sa se in difficoltà o vive momenti tra poco ne parleremo. Grande gloria, assolutamente. Grande gloria. Tra poco ne parleremo della Francia, ma prima... Gioia e divertimento. Gioia e divertimento. Prima però... Io vedo il mio amico Mauro ieri su tutti i giornali. La ministra Squillo. Un successo simile, era da qualche ora, da un anno che non c'era un successo. Cioè, direi l'Oscar della satira. Ma ha fatto... Per quella vignetta là. Addirittura, ma la Fornero sei infuriata in una maniera incredibile. Doppio Oscar proprio per infuriamento pure, di politico beccato, assolutamente. Politico beccato, maschilista Oscar, anche sì. Vincino, maschilista, vergognoso maschilista anche Vincino. No, assolutamente no, anzi sono vittima io. Sono vittima, assolutamente. Allora, ho due figli e una moglie, sono circondato da donne che mi picchiano tutto il giorno. Un disastro, insomma, allora si vendica con la satira. Allora io vi devo leggere i titoli dei giornali, sono tutti sulla Polverini, regioni da rottamare, il giornale, il caso Polverini per la Stampa, Polverini pronte le dimissioni per il Messaggero, il caso Lazio scuote il PDL per il Corriere, ecco il sistema Polverini per Come Repubblica. Scoglio, la Polverini. Immaginare il mare. È in difficoltà, qui cantò anche se non voglio, in una celeberrima esibizione. Le distese azzurre, io non c'ho voce, e le verdi terre. Era in campagna elettorale, era una Polverini combattiva, quella che faceva comizi, nella quale se la prendeva così, per esempio, con la gente che la contestava durante il comizio. Zecca come te, Mario Adinolfi, me faccio mette paura da una zecca come te, scusa per il romano. Strepitosa Renata, però è arrivata al capolinea, io penso sì. Proprio che non abbia proprio la convenienza, io non so come abbia detto ieri, perché era evidente che le dimissioni sono l'unica via d'uscita, poi però queste dimissioni sono state congelate, ma anche proprio dal suo punto di vista mi sembra totalmente impensabile farsi friggere adesso per 2 anni e mezzo con una consigliatura che ormai è massacrata, insomma, non... anche oggi abbiamo sui giornali delle descrizioni che veramente delle faranno foto. La gioia di Vincino le e foto, dei suoi colleghi, ma infatti perché... le foto del party, ma l'avete visto Vincino, l'hai visto le foto del party dove tutti sono vestiti da maiali, scrofe, ancelle, proprio il basso impero, ma ci camperete 30 anni voi vignettisti con queste cose, no? Questo però, no, secondo me relativamente, cioè il party è avvenuto quanto? Sei mesi, un anno fa, due sì, anni fa? Sì, sì. È una notizia vecchia il party. Vabbè, ma adesso, adesso sono venute fuori le foto, ma se vedete oggi i giornali, ma è una roba incredibile, ci sono... Sì, sì. No, ci sono delle centurioni, il vice capogruppo travestito da Ulisse, a fianco la Polverini con gente in parrucca bionda. Io infatti l'ho fatta vestita da Vesta, da Vestale. Sì, sulla prima pagina del Foglio. Oggi sul Foglio, no? E che dice, Cesare, che devo fare? Esatto, Cesare là con la ciolla di fuori messo così, là che... Che ancora non ha deciso, in realtà però come dire, cioè, è lei che ha dato i vitalizi agli assessori, cosa che in tutta Italia non si era mai sentita, cioè in tutta Italia l'unica giunta che dà agli assessori, io vengo andato a fare l'assessore alle vignette, no? 4 anni di assessore perché poi le fanno fuori e io prendo il vitalizio a vita. Assessore alle vignette non è male, per Vincino. Potremmo farlo assessore alle vignette, nessuno ci ha mai pensato. In questa pazza politica si può fare anche questo, forse, no? O no? Presidente, una saggia politica vincino. Farebbe questo. È una pazza. Che dice Vincino? Una? Una saggia politica farebbe questo. Una saggia politica. Non siamo arrivati a questo, Adinolfi, alla saggia politica che fa l'assessore alle vignette, però insomma adesso al di là delle risate, al di là delle foto che ma sono veramente un qualcosa di surreale di questa festa, poi magari... più surreale oggi, allora noi abbiamo avuto, facciamo i cronisti, ieri un interrogatorio che è durato 7 ore di Batman Fiorito, la cui sintesi è... Io non rubavo, distribuivo. Sì, ora, questa è bellissima. Questa cosa, ovviamente, cioè, qui manca totalmente la percezione dell'avere a che fare col denaro pubblico. È una cosa incredibile. Io faccio il deputato, per il cosiddetto rapporto col territorio mi danno 3.690 euro al mese e 1.845 sono congelati perché sono obbligati a essere spese per l'attività politica. Ai consiglieri regionali del Lazio venivano dati 211.000 euro senza obbligo di rendicontazione a ogni singolo consigliere. Ma possibile che questa cosa oggi venga denunciata come problematica dalla Polverini? E guardate che non è vero che si davano anche prima, Sì. Le cose devono andare in aula, venivano votate nella giunta Marrazzo, una vituperata giunta Marrazzo, si votava poi in consiglio. Qui no, qui si davano 211.000 euro a ogni singolo consigliere, in busta sostanzialmente, senza obbligo di rendicontazione. No. E il Fiorito ci dice, io non rubavo, distribuivo. E poi ci troviamo 8 SUV, 4 case. È chiaro che davanti a questo questa mancanza di percezione della gravità, ma non oggi che scopriamo, ieri quando assegniamo quei soldi così. Sì. Ma un deputato ha 3.690 diviso 2, 1.845. Vincino giustamente diceva destra-sinistra, qui nella grande abbuffata Vincino ci stanno tutti. Io non capisco una domanda, cioè, ma perché la regione deve dare dei soldi ai gruppi politici? Perché anche lo Stato, cioè anche il Parlamento italiano deve dare dei soldi ai gruppi politici? Non sai, questo è un bel mistero. C'è un dibattito sul finanziamento alla politica e va bene. Qui siamo all'abnorme, capisci? Sul finanziamento alla politica possiamo discutere. La politica deve avere 0 euro dal pubblico, c'è chi pensa così e sicuramente un referendum. Ma questi sono soldi in più, soldi dati ai gruppi, non si sa perché, non si sa perché. Cioè, non senza... sono i soldi ai partiti, questi sono avanti. Un conto è la politica, un conto è trasformati in soldi ai singoli consiglieri. Certo. È incredibile. Io vorrei chiedere Vincino, c'è anche questa immagine che vorrei regalarvi, che oggi Fabrizio Roncone dal Corriere della Sera ci regala, di Francone Fiorito al massimo del suo successo elettorale. Un giorno si presentò con la fidanzata al ristorante, ovviamente col SUV BMW, 88.000 euro pagato con i soldi del PDL, e quella sera spazzola due vassoi di fettuccine con i funghi porcini, quattro bistecche, e quando arriva il dolce dice: non posso, scusate, c'ho la glicemia alta. Ma la fidanzata dice: sì, si è appena magnato una scatola dei Baci Perugina. Allora, lombrosianamente, Vincino, capisce che sono vignette che vi usciranno così dalla penna, no? Perché come, per raccontare questo momento della politica. No, vabbè, cioè, chiaramente lui proprio poi un tipo proprio particolare, no? Date le dimensioni, le cose e tutto. Però io volevo dire una cosa, che secondo me i soldi dati alla politica sono sprecati in ogni caso. Cioè, sia che il Montino compra 4.000 euro di vino per i bambini, sia che quello si compra un SUV, è la stessa cosa. Sarà nostro ospite Esterino, cioè, Montino, alle 8.30. Alle 8.30 sarà nostro ospite. Per me sono soldi sprecati in ogni caso. Poi se quello li usa per fare i viaggi o li usa per pagarsi 100 manifesti, per me è identico. Io non devono averli, soprattutto quelli dei gruppi politici che già hanno un sacco di soldi, guadagnano tantissimo e per giunta danno i soldi ai gruppi politici. Cioè, la regione che poi sono le regioni che poi si piangevano ogni volta che o Monti o prima o Tremonti facevano dei tagli, piangevano: non potremmo dare i servizi ai nostri cittadini. Ma alla regione a che cosa servono? Io mi chiedo. Alla sanità? La sanità gliel'hanno detto: ora ridiamo la sanità al Ministero della Sanità, via. Le regioni non servono, sono molto più inutili delle province. Le province almeno fanno le strade sotto con le scuole, le regioni non servono a niente. Io che ho una certa età, sono un po' più grande di Adinolfi, no? Io sono della vecchia politica, io mi ricordo quando hanno messo le regioni nel 67, 66, 68, mi ricordo. Più di là, no, prima andavano benissimo, prima nel Lazio, in Puglia, in Corso, se andava tutto bene. Noi in Sicilia, come dire, avevo la regione quella là, Atalica, che sono nato per non fare la rivolta, e va bene, per non fare l'indipendenza, sono nato la regione, e va bene, no. E là è un disastro. Però le regioni in Italia, come dire, non sono servite a niente, non servono a nulla. No, soprattutto negli ultimi anni, il giornale titola così, infatti, regioni da rottamare. Praticamente ci saranno le province che gongolano, finalmente dice: nel mirino siamo noi da 5-6 anni, cancellate le province, adesso forse si accorgono che il problema sono le regioni. No, questo è vero. 24 mattino. Roberto Formigoni, buongiorno. Non le rispondo, ho già risposto tante volte. Non risponde. Alla questione delle vacanze. La tolgo dall'imbarazzo di fare la domanda di un concorrente che poi il suo editore si arrabbia con lei e dice: ma fai pubblicità a noi e non fare pubblicità alla stampa concorrente. Accidenti, poi mi licenzia magari. Allora niente, allora fermiamoci qui. La ringrazio. Le risparmio il licenziamento. Grazie. Eccoci, Formigoni mi ha risparmiato il licenziamento, fortunatamente il licenziamento, sono ancora qui per il momento, sono ancora qui alle 6.46 minuti nel nostro bar di Radio 24, abbiamo Mario Adinolfi e abbiamo il vignettista Vincino. Dobbiamo allargare un po' gli orizzonti adesso, parlare di quello che sta succedendo in Francia. La questione è un po' più seria, invade concetti molto importanti di libertà di espressione, di libertà di satira e però anche di rapporti con una religione, l'Islam, e con alcuni purtroppo fanatici che prendono pretesto delle vignette che sono state pubblicate ieri dal settimanale Charlie Hebdo, che potrebbero incendiare le piazze, come si usa in questa espressione. Allora, Vincino, la domanda banale è questa: dove bisogna fermarsi in nome della libertà di espressione? Che cosa bisogna concedere della libertà di espressione, di satira, quando abbiamo al di là del nostro muro qualcuno che dice: e mo io allora ti ammazzo qualche ambasciatore, ti assalto le piazze, ti incendio le bandiere e magari con questo pretesto ti faccio anche degli attentati. Come la mettiamo, Vincino? Questo qua mi sembra un ricatto, assolutamente. La mettiamo nel fatto che i miei limiti sono i limiti della mia fantasia, no? Io con la satira racconto il mondo di oggi, di ieri, con la massima fantasia possibile e con i limiti del mio editore, che per dire, io disegno per il Corriere della Sera, disegno per il Foglio, e ogni editore, come dire, Cioè, io capisco che sono dei limiti, cerco di non mettere in imbarazzo il mio caporedattore, no? Poi sono tanti anni che lavoro e automaticamente insomma so come mettermi in cosa. Però non ci sono cose che la satira non può cogliere, non ci sono, perché la vicenda umana. La linea è caduta, adesso la recuperiamo. Qui il problema, però, vorrei anche da Maria Dinolfi, che ci sono delle vignette con Maometto ritratto anche in un caso nudo. Già ritrarre Maometto per l'Islam più puro e fedele è un peccato mortale. D'accordo con Vincino, esistono dei limiti che vengono dati agli editori e io penso che il ragionamento qui va fatto proprio sulla linea editoriale. Sono gli editori a dover capire che a un certo punto bisogna mettere uno stop se le conseguenze sono, diciamo così, di infinita gravità rispetto a una vignetta. Io posso concepire la libertà di Calderoli di andare a porta a porta, sì, con la maglietta anti-islamica, è una sua libertà, ma capisco che c'è un limite. Allora, su questo bisognerebbe ragionare, ovviamente, sul grado di maturazione di un certo Islam, anche di alcuni stati islamici, dove poi dopo è la politica a fomentare quelle reazioni direttamente. Quindi, ma al limite, se uno non riesce a darselo il limite, ecco, abbiamo recuperato Vincino, cioè il caporedattore di Charlie Hebdo dice: io il limite non me lo do, voglio ritrarre Maometto nudo perché non me ne... Ha ragione. Il Papa nudo l'abbiamo disegnato. Lo so, però questo purtroppo... nessuno ci ha ammazzato. Però siccome viviamo in un mondo globale, questo purtroppo ha delle conseguenze. Che ci piaccia o no, nessuno... Purtroppo è così, ci sono dei fanatici di là che dicono... io voglio che lo Stato mi difenda. Quindi non si... Assolutamente. Non si cede di un millimetro. Se loro fanno un reato, tentano di ammazzare quello che dico, tentano di ammazzare me. Lo Stato mi deve difendere da chi fa un reato. Non faccio un reato disegnando, per dire, le vignette che hai là danesi. Sì. Erano delicate in generale, non c'era nessun reato, ovviamente, manco il reato di offesa alla religione, questi reati farlocchi che esistono anche nel codice italiano, manco quello era stato beccato. Però che ne so, Vincino, mettiamo il caso che c'è un fanatico, purtroppo ce ne sono, che dice: per questa vignetta io metto una bomba lì, in quella città che non nominiamo. Che facciamo? Io leggo un articolo da Dinolfi, c'è un pezzo che mi dà fastidio per quella frase che ha detto Dinolfi, io metto una bomba da Dinolfi. Posso stare al ricatto di qualsiasi pazzo che legge. Niente, già lo stanno sembra sotto tiro Vincino appena giustificato le vignette, c'è qualcuno già, e lo so, Adinolfi, la questione è molto profonda, il problema è che non abbiamo a che fare con persone che si siedono a un tavolo e ragionano come stiamo facendo noi davanti a un caffè. Ai limiti ci credo. Siamo un po' abituati, no? In Italia abbiamo anche una satira contro la religione che è stata sempre tradizionalmente fortissima e prova della libertà sempre concessa alla libertà, all'espressione, la stampa, gli articoli, le vignette anticlericali, anche pesantissime, sono state sempre all'ordine del giorno, quindi abbiamo, pur se c'è il reato di vilipendere la religione, poi in realtà non l'abbiamo mai neanche concepito, ed è un bene perché è la prova della civiltà al grado di civiltà a cui siamo arrivati. Sì. Però, ripeto, le conseguenze certe volte sono talmente pesanti che bisogna pensarci. Però Vincino non riesco a dire che Calderoli ha fatto un atto di libertà in quel momento. No, questo sì, però Vincino dice non bisogna recedere. Vincino, qua siamo... Che c'entra Calderoli? Calderoli ha fatto una provocazione, non c'entra niente, io non faccio provocazione, io faccio satira. Calderoli non ha fatto satira. Però Vincino dice io faccio satira, quella è una stronzata. Quella è stata una stronzata. La satira e il film su Maometto, capisci cosa voglio dire? Ma quello, il film è una pacchianata, cioè il trailer è una roba, è una cialtronata. Dov'è il confine? fine della pagina, cioè, capisci? Lo so, qua il tema anche quello è libertà d'espressione. Il tema è profondo. Tema è profondo. Noi ci dobbiamo fermare. Vincino, appena nomina l'Islam e giustifica queste cose, le cade la linea. Già sotto tiro, attenzione, perché non vorremmo. No, comunque, Vincino, grazie. Devo fermarmi. Grazie a Vincino e a Mario Adinolfi del Partito Democratico per essere stati con noi nel nostro bar di Radio 24. Ora il GR24. Riprendiamo con la lettura dei giornali alle 7:20. Mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e beve un caffè. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre, io non so voce. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno là, la ricetta di Ciccirinella, compagni di cella, precisa mamma. Le 7:20 minuti, allora siamo qua, cari ascoltatori, eccoci ancora in diretta, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Siamo pronti alla lettura dei giornali, poi parleremo della regione Lazio ancora, perché è il tema del giorno, da vari giorni, vicina alle dimissioni, pare Renata Polverini. Parleremo anche con il deputato Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà, alle 8:15, lui è uno dei tesorieri del partito, colui che tiene le casse, quindi parleremo di partiti, controllo, certificazione di bilanci, hanno fatto retromarcia, si faranno certificare il bilancio da società esterne. Comunque, insomma, soldi, i soldi nostri che vanno alla politica, questo è il tema e il filone del giorno, ne parliamo più avanti con gli ospiti, ora i giornali ne dicono. Allora, come detto, moltissimi quotidiani, quasi tutti, aprono sulla situazione della regione Lazio. Vediamo il Corriere della Sera, il caso Lazio scuote il PDL, Repubblica, ecco il sistema Polverini fiorito dai PM, il Fatto Quotidiano, Polverini, tutti gli sprechi, la festa è finita. La Stampa, il caso Polverini scuote il PDL, il Messaggero, Polverini pronte le dimissioni, Libero, palude delle libertà, il Giornale, regioni da rottamare, l'Unità, Polverini, il festino è finito. Tra l'altro tutti associano questi titoli con la foto, ormai è celebre, forse l'avete vista, di questa festa da basso impero, qualcuno ha commentato, da fine impero, una festa in costume con ancelle, con un consigliere regionale travestito da Ulisse, con donne e uomini travestiti da maiali, con facce proprio da maiali, insomma la festa che, alla quale ha partecipato anche, ha fatto un intervento, una comparsata, la governatrice, l'imperatrice nel caos, per esempio il titolo del Quotidiano Nazionale di questa foto appunto della festa, la Polverini attorniata da uomini con parrucche bionde, da uomini vestiti appunto da romani o da greci in questo toga party greco-romano, di donne vestite da ancelle, in polvere, titola al Manifesto. Insomma, come vedete, i titoli tutto su questo. Il Sole 24 Ore invece ha un'apertura, un'inchiesta sulle pensioni e le casse superano gli esami, una anticipazione importante sulla solidità della previdenza dei professionisti, che dovrà essere comunicata a fine mese al ministro del welfare Fornero in un'interessante inchiesta sul Sole 24 Ore. Sole 24 Ore che tra l'altro oggi esce in edicola con allegato lo Stato dell'Italia, un numero speciale, l'anniversario 2012, è una rivista su come siamo, come potremmo essere, come vorremmo essere, una sorta di inchiesta ottimistica, insomma, sul futuro del nostro paese. C'è anche un intervento in esclusiva di Jovanotti per la ripresa dell'Italia, lo trovate oggi con il Sole 24 Ore. Io vorrei iniziare da un tema che ieri Michi Vendola ha lanciato in un'intervista a Pubblico dicendo: voglio diventare papà. Allora, è un tema che riguarda i diritti civili, le coppie omosessuali. Prima aveva detto voglio sposarmi, ora ha detto voglio diventare papà. Allora, questo tema viene affrontato con paginate. Beh, il Giornale, Vendola vuole diventare papà e fa saltare in aria la sinistra. Viene riportata anche la prima pagina del Quotidiano Pubblico di ieri. Nichi rilancia sulle adozioni omosessuali, il PD va in crisi. anche per Libero il titolo è molto sfrontato, molto aggressivo, alla Libero insomma, con la sinistra avremo Mammonichi. Mentre il PD Fioroni in un'intervista a Pubblico replica all'intervista ieri di Nichi Vendola dicendo capisco Nichi ma i bimbi non vogliono, questo a pagina 3 di Pubblico intervistato da Tommaso Labate, ma secondo me la cosa più interessante da leggere, comunque la pensiate, poi ognuno si fa un'idea, è proprio una lettera che lo stesso Nichi Vendola affida sempre al quotidiano Pubblico dal titolo Io vi dico se non ora padre quando, è Nichi Vendola, quindi non è solo una persona omosessuale che ha detto voglio sposarmi, voglio avere un figlio, è anche il governatore della regione Puglia, il capo di SEL, uno dei candidati forse alle primarie del centro-sinistra, quindi un uomo politico di primo piano. Ed eccola qui allora la lettera di Vendola, una lettera anche molto intensa. Scrive Nichi Vendola: non ho mai pensato a un figlio come un giocattolo, ma come la sfida più bella con noi stessi. In tanti mi chiedono perché tu che sei omosessuale vuoi essere padre? È una discussione delicata e difficile perché si cammina a piedi nudi su una terra lungo minata. Proverò a dirmi con sincerità. Padre, madre, il principio generatore, il seme della vita, il grembo che accoglie, madre, padre, sono i primi sorrisi che abbiamo messo a fuoco venendo al mondo, i primi nomi che abbiamo inteso pronunciare anche biascicando fonemi un po' buffi, l'alfa e l'omega del nostro lessico relazionale. La genitorialità è un'esperienza radicale, ci pone dinanzi al nostro limite esistenziale, scuote in radice il nostro sentimento di onnipotenza, ci colloca con più consapevolezza nella sequenza storica delle generazioni che si succedono le une alle altre. Mi è capitato di riflettere sui genitori che invecchiano, che invecchiando capovolgono tutti i codici comportamentali. Essere figli è davvero un mestiere complicato. Si può camminare sulla fune tra la voglia di non abbandonare la culla e le repentine maturazioni coatte tra il desiderio di essere accudito per sempre e il desiderio di evadere dalla casa natale, tra il calore del riparo familiare e la freschezza perfino frizzante della fuga. Mi è piaciuto da morire essere figlio, imparandone le prerogative, scegliendo ogni giorno di rinnovare il contratto sentimentale coi miei vecchi. Non ho mai pensato a un figlio come un giocattolo, ma come al più impegnativo dei compiti. Mi piacerebbe crescere un bimbo, una bimba, tanti bimbi. Non ho mai sopportato l'idea che questo mio desiderio potesse essere spettacolarizzato, strumentalizzato, ma non sopporto più l'idea di doverlo occultare. E mi chiedo, se non ora, quando? Insomma, Nichi Vendola lancia questo tema in prima persona molto molto dibattuto, se anche gli omosessuali possano adottare dei figli. Vorrei rapidamente invece, prima della pubblicità, darvi due letture contrapposte di un fatto, e cioè la dichiarazione, non è la prima volta, di Miccichè, politico siciliano, che ha detto due giorni fa io non intitolerei l'aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino, perché è come ricordare la mafia nel momento in cui lo intitolerei a figure positive. Il che vorrebbe dire che quelle sono figure negative, no, però insomma, se si ragiona per contrari, un po' vuol dire questo. Una figura positiva, che ne so, Archimede. E allora oggi Massimo Gramellini su Il Suo Buongiorno e Filippo Facci su Libero, nelle rubriche quotidiane in prima pagina, si esercitano su questo. Scrive Massimo Gramellini, Miccichè de Pitagorico. In cerca di tregua ho alzato gli occhi da una foto sbrodolante di Fiorito e ho acceso la TV e non ho avuto fortuna, stava parlando Miccichè. Si tratta di un ex pubblicitario di Berlusconi che ogni tanto lascia o minaccia di lasciare un partito di Berlusconi per fondarne uno alleato con Berlusconi. Anni fa gli viaggiai accanto in aereo da Roma a Palermo e quando la hostess gli chiese se preferiva lo snack dolce o salato, lui rispose «dolce e salato». Mi parve subito in grado di portare il suo contributo al debito pubblico della Sicilia. Ora non sopporta l'intestazione dell'aeroporto a Falcone e Borsellino, un errore di marketing, secondo Miccichè. Perché mai? Capirei se l'aeroporto portasse il nome di un assessore al traffico, l'atavico problema della Sicilia. Ma la mafia, dolce e salata, continua a operare con inesausta professionalità. E poi quale nome alternativo propone Miccichè? Archimede, che neppure era palermitano ma di Siracusa. Vorrei tranquillizzare il novello Archimede, tutti i pitagorici, Falcone e Borsellino, rappresentano un'ottima scelta di marketing, la legalità. E invece Filippo Facci, nel suo appunto su Libero, dal titolo Chiamiamolo Ustica, scrive così, che Gianfranco Miccichè voglia chiamare l'aeroporto di Palermo Archimede, Galileo, magari anche Piero, non ci toglie il sonno, ma il conseguente coro dell'antimafia piagnens al solito è gradevole come la sabbia nelle mutande. Ma come? Non ti togliamo l'aeroporto a Falcone e Borsellino? Che scandalo, che insensibilità! Il ragionamento di Michiché avrebbe anche un senso. Dice che preferirebbe titolare l'aeroporto a una figura positiva, perché è brutto che un turista atterri in Sicilia e l'associ subito alla mafia e vari stereotipi. Si può non essere d'accordo, ma è insopportabile la pretesa di zittire un Michiché da parte dei corifei del lutto permanente, i contabili del marketing del defunto, i parenti professionisti, gli sfruttatori politici, editoriali, giudiziari, gente che ci vorrebbe immerso fino ai capelli nelle fiaccolate, nei cortei, negli appelli, nelle urla, nei pianti, negli alberi falcone, nelle cazzate delle agende rosse, nelle vie, nelle scuole titolate solo a morti ammazzati. In Irlanda non c'è l'aeroporto Bloody Sunday, a New York non c'è il Twin Towers, a Milano non c'è il Piazza Fontana, a Palermo, date le sue condizioni, sarebbe già molto chiamarlo aeroporto. Allora, il terremoto minacciato, incombente sulla regione Lazio dopo lo scandalo scoperto di fondi dati ai gruppi consiliari utilizzati, almeno secondo la procura, in un caso, in quello del gruppo del Popolo della Libertà, visto che il capogruppo ex Franco Fiorito è accusato di peculato, utilizzati in maniera impropria, per usare un eufemismo, per comprarsi macchine, case, e la minaccia di dimissioni di Renata Polverini. Ieri è stata una giornata convulsa, pare che Renata Polverini sia stata a un passo dalle dimissioni, frenata solo da Silvio Berlusconi. Polverini si consulta col Viminale un giorno sull'orlo delle dimissioni, così titola pagina 2 il Corriere della Sera. Vogliono cercare di far capire all'opinione pubblica, dice ieri in prima mattinata su canale 5 la Polverini, che il presidente della regione vale un consigliere. Vedo che ci sono articoli che fanno i conti sul mio staff, io ho il dovere di amministrare e governare. Io ho molto alto il senso del ridicolo e l'ho superato. O questa storia finisce oggi o la faccio finire io. E dopodiché è andata a incontrare il ministro dell'interno Cancellieri per capire quali possono essere i tempi in caso di scioglimento anticipato della giunta e dunque di voto. Però è stata una giornata in cui molti critici dicono rischia di tramutarsi quasi in farsa, perché le dimissioni o si danno o non si danno, e invece c'è questa giornata nella quale era pronta le dimissioni. Poi pare che Berlusconi, almeno nel retroscena della politica, per esempio se leggete il Corriere della Sera pagina 3, l'intervento di Berlusconi che gli ha detto così andiamo a sbattere, se tu ti dimetti, in pratica rischiamo lo sbando come partito. Invece la partita è apertissima, stiamo risalendo nei sondaggi, siamo oltre il 22%. Creeresti una situazione peggiore del bombardamento di Dresda. Così avrebbe detto Berlusconi a Renata Polverini, col concetto dunque non mollare proprio adesso. Così anche nel retroscena di Repubblica, Francesco Bei e Mauro Favale, lo trovate a pagina 3, Polverini minaccia le dimissioni ma Berlusconi la frena, così ci mandi a fondo. Però a quel punto Renata Polverini avrebbe messo sul piatto almeno la richiesta di tre teste. L'attuale capogruppo del PDL, Francesco Battistoni, succeduto a Fiorito, il presidente del Consiglio regionale del Lazio abruzzese, nostro ospite anche ieri, e queste sono le due persone per le quali, e poi Franco Fiorito ovviamente accusato di peculato, le persone per le quali Renata Polverini avrebbe chiesto un repulisti. A proposito di Franco Fiorito, beh, ieri c'è stato l'interrogatorio, l'inchiesta va avanti, e Carlo Bonini e Maria Elena Vincenzi su Repubblica raccontano quelli che sono i primi dettagli emersi da questo interrogatorio finito fino alle 22:30. La linea di Fiorito sarebbe questa: io non rubavo, io distribuivo. I ladri sono altri, la difesa di Batman è questa: posso giustificare ciò che ho preso, mentre altri del PDL non so se sono in grado di farlo. In realtà nell'interrogatorio è spuntata anche un'ultima casa, un'altra casa in via Margutta al 51B, 205 metri quadri di proprietà dell'IPAB Sant'Alessio, affittati a 4.000 euro al mese, messi a disposizione, pare, appunto dell'ex capogruppo Fiorito, con un portoncino di legno all'ingresso annunciato non dal suo nome, ma da una targa: attenti al cane. Vabbè, arricchita da una chiosa a pennarello con scritto che è frocio. Vabbè, questo è cronaca di Carlo Bonini e Maria Elena Vincenzi, che sono andati a vedere questo appartamento, che attenzionato. A proposito di Francone Fiorito, c'è un articolo sul Corriere della Sera, un articolo di colore, se volete, di Fabrizio Roncone, che racconta un po' la parabola, la storia di Franco Fiorito e Sissi, così soprannominata. Samantha Reali, la sua ex fidanzata, detta Sissi, 36 anni, detta Sissi perché da giovane era tutta boccolosa, coi capelli biondi, baci e un furgone di rose, la favola ciociara di Sissi e Batman. Fabrizio Roncone racconta un po' questa storia. Beh, intanto ancora la genesi di questo nome misterioso che Francone Fiorito disconosce. Batman omette di dire che il soprannome gli fu scelto quel pomeriggio che in garage si mise a cavalcioni su una fiammante Harley Davidson, ma non appena i quattro amici che lo sorreggevano mollarono la presa, lui non riuscì a ingranare la prima e con un tonfo sordo e bestemmiando cadde su un fianco. Lui ha sempre smentito questa cosa, però insomma non si sa se è tra la leggenda o che cosa. Una sera arrivano al ristorante Il Giardino di Ferentino, lui e la fidanzata, folla di invitati, cena gratis in cambio di voti. Nel 2010 lui prese 26.400 preferenze. I due incedono come regnanti, lui scherza: che so io, sol vostro federale, mai rinnegato d'altronde il passato da fascista. E lei con un filo di voce: Francè, tieniti, mangia poco. E lui, arrivato col SUV, mangia che cosa? Quella sera, due vassoi di fettuccine coi funghi porcini, quattro bistecche. Quando arriva il dolce, però, confessa: non posso, scusate, devo stare attento alla glicemia. Mentre la fidanzata sospira: sì, vabbè, prima si è svuotato una scatola con 24 baci perugina. Si amavano, sì. E la storia raccontata un po' surreale da Fabrizio Roncone di quello che è la storia di Francone Fiorito e l'ex fidanzata Sissi. Anche se oggi, cari ascoltatori, quello che andrebbe descritto sono le foto. Non c'è giornale che non abbia e che non voglia giocare su quella festa, quel toga party organizzato dal consigliere del PDL De Romanis, che ha detto: ho pagato tutto di tasca mia, 20.000 euro per la mia rielezione, perché io ero a Bruxelles prima, sono stato nominato consigliere regionale della Lombardia e del Lazio, e dunque per il mio ritorno a casa mi sono travestito da Ulisse e ho fatto questa foto, ho fatto questa festa. Ci sono le foto, ma incredibili. Tra l'altro a questa festa c'è anche Renata Polverini, nel senso che ha fatto una comparsata e racconta al Corriere della Sera: quando ieri sono state diffuse quelle foto, beh, lei ha visto lì un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e l'ha portata a dire: quasi quasi mi dimetto, quasi quasi. Però poi pare che abbia avuto anche un malore, cioè c'è un mistero sulla giornata di ieri di Renata Polverini, molto intensa. Sta di fatto che queste foto raccontano che cosa? Beh, il Fatto Quotidiano la mette così: politici e porci, l'ultimo veglione. Sono foto di gente in costume, ancelle, donne travestite da ancelle, uomini con la maschera da maiali, Carlo De Romanis appunto che è travestito da Ulisse, una festa greco-romana. Il Messaggero lo definisce il Satyricon dei rampanti azzurri, vestali sexy, maschere da maiali al Satyricon dei rampanti azzurri, politici travestiti da Minotauro per festeggiare il seggio in regione. E non so come dire, c'è poco da raccontare, c'è forse molto da vedere. Francesco Merlo fa un epocale pezzo in prima pagina di Repubblica sul toga party alla Vaccinara, ancelle, maiali e champagne alla corte del governatore. Scrive Francesco Merlo: il video e foto di questo ricevimento in costume che il festeggiato De Romanis, vestito da Ulisse, ha definito sobrio e misurato, vanno molto al di là del cattivo gusto, del kitsch che in fondo è stato studiato da Gillo Dorfles come stile. Qui siamo nella pacchianeria grottesca e casuale. una vera sarabanda di puttanate, uno spettacolo di trivialità senza alcun nesso se si esclude l'idea che semo romani e dunque semo pure greci. I greco-romani sono 2000, alcuni vestiti da maiali con le mani che acchiappano cosce mentre le puelle in tunica si leccano i musi e finalmente la scrofa prende il posto della lupa capitolina. Sono davvero... si potrebbe dire scene da un film di Vanzina, scene da Basso Impero, qualcuno titola. In prima pagina molti mettono la foto di Renata Polverini in questa festa, attorniata appunto da persone in costume, e giocano su questa idea, la festa è finita, il festino è finito. Invece Carlo De Romani, travestito da Ulisse, fa un'intervista. Intervistato da Grazia Longo sulla Stampa, dice: alle mie feste a Bruxelles c'era anche Berlusconi. Allora intanto dice... queste feste, non è venuto a questa festa, magari fosse venuto, io l'avevo invitato ma era all'estero per un impegno istituzionale, ma magari sarebbe stato imbarazzato in quel contesto mascherato. Guardi che alcuni possono pensare che si stia parlando di un'occasione trash, ma era solo una goliardata pagata di tasca mia, lo ribadisco. L'idea è stata di una mia amica, dopo 8 anni di lavoro a Bruxelles volevo celebrare il mio rientro a Roma e allora decisi di indossare i panni di Ulisse, che come nel mio caso era tornato vincitore in patria. Ho speso 30.000 euro ma appartengo a una famiglia benestante e dice sì, era una festa e anche a Bruxelles facevo feste ma non festini, alle quali 3 volte è intervenuto anche Silvio Berlusconi, solite cose, barzellette, cantanti con assistente di Apicella, insomma solite cose. Alle mie feste a Bruxelles c'era anche Berlusconi, ma certo questa festa è davvero una festa che rischia di costare molto con quelle foto abbastanza trash che trovate su tutti i giornali. Vorrei prendere la prima pagina del Sole 24 Ore perché oggi c'è un'inchiesta molto interessante e importante per tutti i professionisti sul tema pensioni. Il 30 settembre c'è una scadenza importante perché le casse di previdenza dei professionisti di tutte le categorie dovranno dare i conti per vedere se c'è una sostenibilità dei bilanci a 50 anni in vista appunto delle pensioni. È ciò che ha chiesto il ministro del welfare Elsa Fornero. Ebbene, oggi il Sole 24 Ore anticipa con un'inchiesta dal titolo «Le casse superano gli esami», cioè gli enti privati dimostrano la sostenibilità dei conti a 50 anni, un'inchiesta che trovate poi a pagina 2 e 3 dettagliata, diciamo professione per professione, quindi la cassa forense, i consulenti del lavoro, i commercialisti, i farmacisti, i geometri, i giornalisti, i medici, i notai, i ragionieri, i veterinari, tutti coloro che hanno appunto delle casse previdenziali separate dall'INPS. Le casse passano il test sostenibilità per le pensioni, questo è il titolo dell'inchiesta. I più in difficoltà sono i ragionieri, ma perché mancano nuovi iscritti e dunque mancano nuove liquidi che entrano nelle casse, dunque è un caso particolare. Da tempo si registrano ingressi con il contagocce perché il fattore demografico mette a rischio l'equilibrio dei conti. Ingegneri e architetti puntano invece sul sistema contributivo, ma comunque dettagliato per professione ci sono tutti i conti delle casse previdenziali, dunque se siete nella vasta gamma dei professionisti che possono godere di questi di questa cassa previdenziale, se volete sapere i conti delle vostre casse, oggi sul Sole 24 Ore c'è tutto, anche in vista appunto della presentazione di questi dati al ministro Fornero. E poi per quel che riguarda la politica, invece, escludendo tutta la questione della Regione Lazio, c'è il tema dei bilanci dei partiti. Hanno fatto marcia indietro, cari ascoltatori, ne parleremo alle 8.15 con il tesoriere del Popolo della Libertà. Hanno fatto marcia indietro sul controllo dei bilanci di società esterne, i bilanci dei partiti, il via libera della Camera al controllo esterno, dunque una precipitosa retromarcia evidentemente. Tutti i giornali la pongono così. Che dire invece, la cosa più interessante di politica forse è il fatto che nel Partito Democratico si discute su come fare le primarie e il confronto TV tra Renzi e Bersani pare non ci sarà, perché scrive il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli: Bersani nicchia. Se il confronto TV col sindaco preoccupa i leader dei democratici, Matteo Renzi lo aveva annunciato, chiederò un confronto pubblico in TV con Pierluigi Bersani, Ma per quanto Renzi sia un uomo tentato, non gli sarà facile raggiungere questo obiettivo. Dall'altra parte rischia di trovare un muro di gomma. A chi ha chiesto? A Bersani. Questa cosa, la motivazione ufficiale di Bersani è: ci sono diversi candidati, non ha senso un dibattito a due che escluda gli altri. Sta di fatto che ci sarà o no, questa è la domanda, questo dibattito tra Bersani e Renzi, i due candidati principali alle primarie del centro-sinistra, chi lo sa. Intanto la RAI, giusto per rimanere in dibattiti TV, è in profondo rosso. Questi sono i conti che il direttore generale Luigi Gubitosi ha esternato con un'operazione trasparenza, una dolorosa operazione verità, scrive Goffredo De Marchis su Repubblica, pagina 15. Perdite per 200 milioni, questo alla fine dell'anno è la stima. La perdita prevista per il 2012 raggiunge una cifra monster, 200 milioni di euro. E poi si dice non va privatizzata, e poi si dice attenzione italiani, questo lo dico io, attenzione al portafoglio, tenetelo sott'occhio, che poi quando si chiudono questi bilanci in profondo rosso a fine anno, poi a gennaio c'è il canone della RAI da pagare. State attenti, perché un aumento qui, un aumento là, 2 euro in su, 3 euro in su, il canone della RAI rischia di aumentare. Ma questa è una previsione mia, non lo dice nessuno. La RAI in profondo rosso, perdite per 200 milioni. E Gubitosi, il direttore generale, dice la situazione è grave. La semestrale presentata ieri dai vertici dell'azienda, leggo dall'articolo di Repubblica, è un bagno di sangue. La precedente direttrice generale, Lorenza Lei, aveva detto chiuderemo in quasi sostanziale pareggio. Ecco invece, la RAI perde nel primo semestre 129 milioni e la prospettiva è quella di sfondare quota 200 milioni di perdite alla fine dell'anno. Questa è l'esposizione nuda e cruda dei numeri fatta da Gubitosi, in cui naufragano le previsioni scoppiettante illustrate dal predecessore Lorenza Lei. C'è tutto il tema poi della satira anti-Islam. Io devo chiudere, ma ci sono tanti articoli sulla satira, sulle vignette pubblicate in Francia dalla rivista Charlie Hebdo. Vi segnalo il caporedattore Gérard Biard, intervistato dal Secolo XIX, pagina 7, dice: noi torniamo alla carica con altri disegni. Il presidente Hollande in silenzio è un codardo. La libertà di stampa e la libertà di satira è quella che non cede di fronte ai fanatici. Le vignette in questione sono anche quelle che ritraggono Maometto nudo, Maometto in pose sconvenienti. La guerra delle vignette titola Libero, e la domanda che sempre ci si pone è giusto limitare la propria libertà con vignette che provocano la reazione di fanatici della religione musulmana, oppure è giusto autolimitarsi in nome di questi rischi? Siamo qui alle 8:18, allora ben ritrovati da Alessandro Milan. Vogliamo parlare di politica con i nostri ospiti. Alle 8:30 parleremo della regione Lazio, ancora con la governatrice Polverini sull'orlo delle dimissioni. Prima però vogliamo parlare di bilanci dei partiti. Lo facciamo con l'onorevole Maurizio Bianconi, è un ritorno del Popolo della Libertà. Buongiorno. Buongiorno a voi. È uno dei due tesorieri del partito, uno di quelli che hanno le casse, i conti sotto mano del partito, il Popolo della Libertà, il partito di maggioranza ancora in Parlamento. Senta Bianconi, allora abbiamo letto di questa retromarcia alla Camera, cioè vi siete voi, classe politica, convinti che bisognerà certificare i bilanci della società esterna che verrà scelta dalla Presidenza della Camera? È meglio così? È giusto così, finalmente? Intanto c'è da precisare che una cosa sono i bilanci dei partiti e una cosa sono i bilanci dei gruppi parlamentari, che sì, sono due cose profondamente diverse. Il gruppo parlamentare è, diciamo, un organo, non è una definizione esatta, ma faccio per far capire, della Camera, mentre il partito è un ente privato, quindi sono due cose completamente diverse. Si può anche far certificare il bilancio dall'organo esterno alla Camera. Il problema è di ordine costituzionale, e quindi poi lo vedranno loro. Sì, quello riguarda ovviamente il bilancio dei gruppi che verranno, sì, certificati, esatto, perché sono quelli dove si annidano, no, un po' le spese, che non si capisce dove vadano a finire tutti questi soldi, visto che Questo non è vero, perché il bilancio del gruppo fa parte integrale del bilancio della Camera adesso, quindi vengono controllati, ci sono i questori, ci sono tutti gli organi interni. Capisci, appunto, interni, cioè il controllore tutta che controlla. Tutta la Camera è guidata così, ma non per nostro volere. Lo so, c'è l'autodichia. C'è la cosiddetta autodichia, ma questo non è che l'abbiamo inventato noi. No, per carità, io è da 3 giorni che prendo in giro questo nome bellissimo, principio altisonante e secolare, ma che insopportabile per gli effetti che produce. Ce l'hanno tutti gli organi, c'era la Corte Costituzionale, c'era la Corte dei Conti, cioè non è un'esclusiva della Camera o del Senato. No, per carità, è un valore costituzionale, poi che viene più o meno bene o male usato, ma lei deve pensare che la Camera e il Senato sono, diciamo così, la tutela della democrazia, che non può sopportare che ci possano essere da parte di poteri estranei intromissioni sul loro funzionamento. Questo è il principio costituzionale. Il principio che Camera e Senato siano la tutela della democrazia è sacrosanto. Detta però così, Camera e Senato sono la tutela della democrazia, lei sa che almeno un 5-6 milioni di italiani sbanderebbero in automobile. Se sbanderebbero in automobile, bisogna che brucino la Costituzione. È l'uso che si... Cioè, non sono mai le norme, sa che... rovinano, sono sempre gli uomini che le utilizzano, come le religioni. È come il prete, dice: non guardare quello che faccio, senti quello che dico, ecco. Sempre, il principio è sacrosanto, poi però viene poi ci si mettono gli uomini. Esatto, questo è sempre. E senta, bisogna stare attenti quando ci si deve guardare dal comportamento degli uomini, di non intaccare i principi, perché dopo si paga. La particolarità dell'homo politicus in questo momento non gode di grande favore tra la gente comune. Sì, questa è una cosa abbastanza storicizzata e oggi è piuttosto acuta, e mi pare che ce ne siano anche dei motivi. Senta, Sposetti, che ha fatto il tesoriere, quindi conosce anche questa, ha detto: ma guardate che si può far certificare tutto quello che si vuole, ma se uno vuole rubare, manco Gesù lo ferma. Lei condivide? Ha perfettamente ragione. Sposetti è un uomo molto serio, conosce a fondo la materia, io lo stimo moltissimo. È vero, è inutile stare a mettere regolamenti, le regole, eccetera, se non cambia la sostanza di chi fa, ma lei può mettere tutte le regole che vuole. Hanno messo la società di certificazione esterna, benissimo, hanno fatto una cosa che volevano fare, hanno intaccato un principio passi, però io ricordo che le società di revisione poi non è che sono al massimo della garanzia, perché la Parmalat ce l'aveva, per esempio. La Lehman Brothers ce l'aveva, per esempio. Come diceva Sposetti, cioè il principio è questo: puoi mettere tutti i controlli che vuoi, se uno vuole rubare, ruba. È logico. Ma quindi lei è, diciamo, è contrario a questo controllo esterno? Ci hanno intaccato? No, questo... lo ritengo inutile al fine del controllo, è molto caricato dai media, è pericoloso perché ha intaccato un principio che domani può, insomma, costare qualche cosa, però non ritengo la cosa che sia di grandissima importanza. Senta, perché non lo togliamo allora questo finanziamento ai partiti, che a voi creerebbe un po' di problemi? L'ultima volta che ci siamo sentiti lei ha detto: va bene, togliamolo, io dovrò licenziare da qui alla fine dell'anno tot persone. Lo devo fare. Conferma, cioè quante persone lascerà a casa il partito? Non lo so, faremo i conti in questi giorni, ma qualcosa succederà. Ma lì vede, io non mi sono lamentato del fatto che ce l'abbiano tolti, mi sono lamentato che ce l'abbiano tolti a 10 giorni dall'erogazione, perché io preparo un bilancio preventivo, perché so che il 31 luglio di quell'anno riceverò una somma, sì, e quindi programmo delle spese. Capisce che però era arrivato un terremoto che non è molto programmabile. Va bene, però ma me le potevano togliere di più per l'anno prossimo e lasciarli quelli programmati per l'anno in corso? Perché è come se lei in casa sa che un anno guadagna 100.000 euro, 50.000 euro, fa i suoi programmi, poi quando li deve riscuotere gliene danno la metà, e allora magari il mobile lo deve restituire, e che posso dire? Bisogna che poi disdetta l'affitto perché la casa è troppo cara, e succede questo. Il danno è stato averlo tolto in corsa. Senta, sa che c'è una proposta che prevede di annullare i finanziamenti ai partiti e prevederla solo da finanziamenti privati. È la proposta cosiddetta Capaldo, del professor Capaldo. È pericolosissimo. Pericolosissimo, sgravando però al 95%, quindi praticamente il cittadino privato che dà un contributo l'anno successivo nella dichiarazione dei redditi se lo ritrova tutto, sgravandolo totalmente, anche perché sennò nessuno darebbe soldi ai partiti, diciamolo francamente. E c'è un problema qui, è già stato sentato. Il problema è questo: io sono del PDL, quindi vorrei dare soldi al PDL. Non lo posso fare perché violo la segretezza del voto, e quindi bisogna che lo metta in un fondo generale, e quindi do i soldi anche al PD. Quindi la gente ha una certa riottosità a fare questo. Ma perché uno viola il segreto del voto? Perché se io do i soldi al PDL, mica vuol dire che voto per forza al PDL. Insomma, i costituzionalisti l'hanno valutata così. Allora il fondo è generale, non è ad hoc, non è per quel partito. Quindi si può fare questo per la detrazione fiscale, dico io, però bisogna metterlo in un fondo generale che subirà una ripartizione. Allora questo è un po' un problema. Però guardi che il finanziamento pubblico fu inventato per togliere lo strapotere ai partiti dei ricchi, diciamo. Lo so, però è come l'autodichia, il principio è giusto, ma poi è stato utilizzato male. Dottore, non si può violare i principi perché le persone che esercitano questi principi, non tutte, no, perché anche questo è da dire, non tutti hanno fatto come Lusi e non tutti hanno fatto come Belsito. C'è gente anche che ha fatto come me e come l'onorevole Crimi, c'è Sposetti, c'è Misiani, c'è tanta gente per bene, voglio dire, che si carica di responsabilità non piccole per cercare di fare le cose per bene. Senta, le chiedo questo, secondo lei, che uno sempre dice quello che pensa, quanti suoi colleghi pagano i portaborse in nero? Ora nessuno, perché è venuta la regola, non conviene più. Prima conveniva, e quindi certo. No, come certo, scusi, nel tempio delle leggi, Parlamento. Guarda, no. Io sono con longanesi, dottore, perché qui fare le vergini stupefatte è il peggio che si possa fare. Che diceva? Lui diceva che il Parlamento ci sono il 10% dei membri che sono molto peggio della media degli italiani, il 10% che sono molto meglio e l'80% che è come tutti gli italiani. Quindi so. C'è il nero in Italia, quindi perché non dovrebbe esserci in Parlamento? Non sono mica dei superuomini, gente che fa politica. No, chiaro. Però poi si dice il pesce puzza dalla testa, capisce che... Ma il Parlamento, se nel tempio della democrazia... Testa di niente. No, ho capito, ma se nel tempio della democrazia, ma come è giustamente... Stato, ma lei si pensa al 92, ma lei pensa all'uomo qualunque... Lei pensi a tutti i libri che legge, sull'Ottocento, sull'America, sugli Stati Uniti, i film che vede. La classe politica gode sempre di questa pessima fama. Non è una novità, è l'intensità di questo problema, non che l'esistenza del problema. Ma di sti tempi la classe politica in generale ha dato dimostrazione. Ha visto le ultime vicende romane, noi ne parleremo tra un attimo. Si dovrebbe dimettere, secondo lei, la Polverini? Così secondo me la Polverini non si deve dimettere. Ma perché? Perché no, perché lei è la giunta, non è il consiglio regionale. Lei ha il suo governo... Però non so, ci sono gli assessori esterni coi vitalizi, hanno iniziato... Io ho fatto 13 anni consigliere regionale in Toscana. Sì. Lei sa, perché l'ha visto dalle statistiche, che la Toscana è la regione che ha meno emolumenti in Italia, no? Non mi vergogno di dire che io pigliavo 4.800 euro al mese, tutto compreso, perché c'è il vecchio concetto comunista, viene da lì, che un politico non può guadagnare più di 4 volte di quello che guadagna un metalmeccanico. Questa era l'idea che ha sempre guidato. Anche lì ci sono gli assessori esterni, anzi lì sono tutti esterni. E prendono il vitalizio e prendono lo stipendio. Quindi lei ex consigliere toscano avrà un vitalizio poi? Quando esco dal Parlamento e quando maturo l'età di 65 anni... dopo 13 anni di consiglio regionale pigliava 2.300 euro al mese nei Però poi c'è quella anche da parlamentare. Quella da parlamentare non dovrebbe essere più alta, penso che se faccio una legislatura prenderò 1.700 euro. 1.700. Altre pensioni, no, giusto a sapere, perché magari fa anche come una... avvocato. Ah, come avvocato. Quindi avvocato, vitalizio come consigliere regionale e vitalizio come... insomma, tre pensioni rischia di avere. Ma, io sono un avvocato che sono venuto in Parlamento e denunciavo 350.000 euro l'anno. Adesso... cioè, non è che me ne freghi molto di vitalizi. Ah. Cioè guadagna mia, ci ha perso questo mantra che ci ho perso a fare politica, che uno dice no, mica gliel'ho detto però guadagna di meno. Io, siccome vede, ognuno ha i suoi vizi, io ho questa passione sfrenata, la politica. I miei colleghi lo sanno tutti, ma non lo dico mai. Lei è entrato sempre nelle portafoglio e io gli spiego certo. Il mio portafoglio, se non me lo chiedeva gli dicevo mica niente. No questo sì, però avrà tre pensioni di fatto da avvocato, da... ma io penso che me le sono guadagnate tutte, perché dopo 45 anni se mi danno la pensione d'avvocato, dopo 13 anni se mi danno il vitalizio, se poi me lo tolgono, non me ne frega nulla. Va bene, intanto la ringrazio. Le ha viste le foto delle ancelle, le vergini, gli Ulisse, il mojito nelle giare, i maiali che toccano le ancelle lì nella le foto della festa di Roma, lì il toga party del consigliere regionale? No, non l'ho visto. No, come no? Gli imbecilli... insomma, non è che con gli imbecilli si va avanti molto, non so neanche di cosa parla, francamente, perché però ho capito che deve essere qualche puttanata che hanno fatto questi romani. Sì, più o meno questo editoriale stringato è così. Non cambia la sostanza della puttanata generale che hanno fatto. No, certo. Intanto la ringrazio, ne parliamo tra poco noi. Grazie per essere stato con noi l'onorevole Maurizio Bianconi, deputato del Popolo della Libertà, uno dei due tesorieri del Popolo della Libertà. E allora parleremo anche di questa puttanata, non so, che hanno fatto. Le foto ci sono su tutti i giornali, se le avete viste, le trovate su internet, di queste toga party organizzato dal consigliere regionale Carlo De Romanis per la sua elezione, travestito da Ulisse, ancelle, persone con la faccia, la maschera del maiale. È l'aspetto, se volete, surreale, grottesco, un po' trash di una vicenda politica molto più seria, la questione della regione Lazio e la tenuta della governatrice Renata Polverini. Allora, si dimette, non si dimette, la regione Lazio in bilico, la governatrice Renata Polverini ieri pare sia stata sull'orlo delle dimissioni, frenata, secondo i retroscena giornalistici, da Silvio Berlusconi, che le ha detto: se ti dimetti qui crolla tutto, crolla il partito, rischiamo una situazione tipo bombardamento di Dresda. Questo è il retroscena affidato al Corriere della Sera, per esempio, di Berlusconi, che avrebbe così frenato Renata Polverini. La regione Lazio, l'uso disinvolto, per usare una parola, dei fondi, tanti fondi dati ai gruppi, soprattutto in questo caso il Popolo della Libertà, con l'ex capogruppo Fiorito accusato di peculato, e che ai verbali avrebbe messo ieri questa dichiarazione data da Repubblica: io non rubavo, distribuivo, che rischia di diventare la frase del secolo per questa inchiesta. Ne vogliamo parlare con il capogruppo del Partito Democratico alla regione, Sterino Montino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Montino. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Saluto anche il senatore del Popolo della Libertà, Mauro Cutrufo. Buongiorno, senatore. Buongiorno, buongiorno. È stato vice sindaco di Roma, non conosce il meccanismo della regione, ma conosce bene Roma e quindi è del Popolo della Libertà. Le chiedo subito se secondo lei dovrebbe dimettersi Renata Polverini, senatore Cutrufo. Beh, diciamo che questo istituto, quello delle dimissioni, è una vicenda personale, e vedo che la Presidente Polverini comunque si rende conto che c'è intorno a sé effettivamente una situazione molto molto complessa, e dall'altra parte ha la responsabilità che si porta a chi ha un'elezione diretta, un mandato di 5 anni, risolvere i problemi della gente, eccetera eccetera. Quindi devo dire che comprendo questa sua sofferenza in questo momento, perché vorrebbe, io intuisco, non ci ho parlato, che vorrebbe lasciare, insomma, ecco questo, ma vorrebbe lasciare, immagino, anche per fare una battaglia politica. Io la leggo così. Però senta, le dimissioni non è che uno o le dà o non le dà, non è che c'è questo vorrei lasciare, può fare... Guardi, lì c'è Montino, che è persona esperta, sì, e di cose regionali più di me. Lo sa che anche io da parlamentare mi devo andare a leggere la normativa per capire effettivamente come dare le dimissioni in corso d'opera da presidente di una regione? Perché mi pare di ricordare che la regione può essere sciolta dal presidente della Repubblica, cioè non è come un comune, come sì, sì. Infatti, una infatti è andata dal ministro dell'interno cancelliere a cercare di capire. Non è una mossa, no, però se uno come questo è il gesto, diciamo, se vuole di burocratico, ma il gesto politico, se lo vuole fare, cioè mi dimetto, uno non so, lo dice e lo fa, ecco. Ma quando uno fa un gesto di tale gravità, di tale spessore, di tale importanza, deve essere sicura che poi la sua azione si possa fare giuridico. Certo. Su questo, Estrino Montino, voi ovviamente immagino non aspettiate altro, cioè sareste contenti se la Polverini prendesse atto di una situazione e si dimettesse, immagino sia così. Beh sì, sì, noi abbiamo annunciato che finita diciamo la tornata dei tagli, venerdì, domani abbiamo già un primo consiglio regionale per tagliare le commissioni, poi la prossima settimana ce ne sono altri due per fare un'altra operazione di pulizia, e io mi auguro, lì purtroppo il centrodestra ha votato contro all'ordine del giorno delle opposizioni, che poneva un problema di tagli che riguardasse non solo il Consiglio regionale, ma anche le spese della Giunta. Sto parlando naturalmente non sulla sanità, gli impianti, l'infrastruttura, sto parlando naturalmente un taglio che riguarda le spese generali, sì. Le consulenze, queste cose qua. Ora, già c'è stato un voto del centrodestra che ha detto no a questo, hanno preferito soltanto concentrarsi il consiglio. Adesso facciamo il consiglio e però noi porteremo la discussione anche per sulla quanto giunta. Riguarda i tassi. I tagli sulla giunta, diciamo, il governo. Senta, però le devo chiedere questo, no, poi faccia le sue precisazioni. Lei è finito anche nel mirino, perché se ovviamente adesso i giornali vanno a guardare tutti i soldi finiti ai gruppi, è finito nel mirino per un'uscita forse infelice che vorrei che ci chiarisse. Lei ha fatto oggi un'intervista al Fatto Quotidiano. Sono andati a vedere 4.500 euro spesi in un'enoteca e lei ha dichiarato: ma abbiamo fatto sotto Natale dei regali ai bambini bisognosi. Capirà che insomma l'hanno massacrata su Twitter, piccoli alcolisti anonimi crescono, ma com'è possibile regalare a dei bambini 4.500 euro di vini? No, vabbè, io francamente ho fatto un'uscita infelice, questo purtroppo può capitare in una situazione di tante domande e su tantissime iniziative. Naturalmente io quella iniziativa non c'ero, era un'iniziativa Viterbo, un'iniziativa fatta portata avanti dal consigliere Parroncini, quindi non mi rendevo conto di cosa fosse. Mi sembrava di ricordare questo, invece era un'iniziativa che si rivolgeva, diciamo, così alle persone diffuse, come quella che abbiamo fatto in altri ristoranti, in altri alberghi e così via, ma che non sono la cena tra me e Cutrufo, per essere chiari. 4.500 euro per cosa? Per fare regali alle famiglie bisognose? No, per fare un'iniziativa dentro, poi me l'ha spiegato il consigliere Francini, per fare un'iniziativa dentro l'enoteca, e dentro l'enoteca poi hanno consumato delle cose. Però l'iniziativa con 100-150 persone ma queste cose perché si fanno? Cioè, nel senso, un'iniziativa perché? Cioè, l'iniziativa per questo motivo, cioè ci sono delle iniziative locali le quali vengono portate avanti, è un'occasione per presentare un'idea, per presentare un progetto, per presentare per esempio la nostra proposta sulle questioni o della sanità o dei trasporti, sono iniziative, diciamo, chiamiamole così, come si diceva ai vecchi tempi, di propaganda alla fine si offre un bicchiere. Questo per... alla fine si offre uno spuntino, ma stiamo parlando di questo, non stiamo parlando delle ostriche neanche del del Brunello di Montalcino, ecco. No, no, per carità, fatemi dare le informazioni sul traffico, però è l'idea, questo come lo percepisce la gente, cioè l'idea di dover fare, certo, politica sul territorio, però si invitano 100 persone, si presenta un progetto, cioè il Partito Democratico in questo caso sta portando avanti in regione questo progetto, ve lo esponiamo e poi uno spuntino e 4.500 euro così. Allora, la Regione Lazio, siamo col senatore Mauro Cutrufo e con Esterino Montino, capogruppo del PD alla Regione. Montino, cioè, secondo lei la gente come lo percepisce queste iniziative che lei dice di vicinanza col popolo, in cui poi si offrono, si incontra la cittadinanza e si alla fine si offrono lo spuntino, e questo rientra nelle spese legittime che un partito deve fare per fare politica sul territorio? Ma cioè, adesso io francamente non esagererei, cioè, perché io continuo a dire la politica, le iniziative, diciamo il lavoro anche per divulgare ha comunque un costo. Noi stiamo parlando in quel caso del 5% del bilancio nostro su queste iniziative locali, ristoranti, sì. Ma in zone dove non ci sono sale convegni, non ci sono auditorium, ci sono soltanto, diciamo, location tipo quelle. No, ma quello che la gente non capisce, cioè io non capisco, voi fate il vostro lavoro in consiglio regionale, portate avanti i vostri progetti, in questo caso fate l'opposizione, eccetera. Cioè, perché serve fare un incontro con la popolazione, che immagino vi ha già votato, vi ha dato un mandato di 5 anni, per dire stiamo facendo questo e quindi queste cose costano? Guardi, serve, adesso le faccio un esempio. La Polverini, il primo atto che ha fatto appena è stata eletta, ha adottato un provvedimento, cioè il decreto 80, per chiudere una ventina di ospedali. Questa ventina di ospedali sono stati chiusi in tutto il territorio della provincia, tant'è che ci siamo concentrati molto nelle province, non tanto su Roma in quel caso. Sì, in tutta la regione. È chiaro, è evidente, poi c'è stata una reazione, c'è stata una proposta, ci sono state delle proteste e così via. Quindi voi incontrate, siete andate a incontrare le persone? Incontriamo, perché poi è un'iniziativa e noi lì abbiamo l'occasione di controproporre. Perché non è che i cittadini ti seguono soltanto attraverso la rete o ti seguono soltanto attraverso, cioè, la politica, radio, politica sul territorio. Politica sul territorio, è cosa diversa da altre. Sì, no, senatore Cutrufo, adesso non è questione di PD, PDL, anche perché poi qua c'è Esterino Montino, ma la vera croce dovremmo buttarla addosso in questo caso al PDL, alla Regione Lazio, perché la persona accusata di peculato è l'ex capogruppo del PDL, eccetera. Ma la gente percepisce questa idea di fare politica così ormai, oppure no, senatore? Non se ne può più, insomma. Questa è una domanda importante, però prima di tutto non è addosso al PDL il reato penale personale, sì, certo, è certo. Addosso a Fiorito, questo sì, come tutti i reati sono personali, come tutti i reati sono personali. Detto questo, quello della propaganda e del sostegno alla propaganda è un problema che ho sempre esistito. Questo tipo di cene di tipo elettorale o informativo post-elettorale, cioè di informazione di ciò che si sta facendo, è un fatto soprattutto nel nostro paese, ma anche negli altri, ma nel nostro paese in modo particolare tradizionale. Per cui effettivamente, ora in altri paesi si paga ognuno per sé, per esempio, no? Esatto. E qua invece viene utilizzato fondi destinati ai gruppi, ai gruppi regionali. Sì, destinati ai gruppi, si dice anche per la propaganda proprio di quel gruppo, attenzione, sì. Lo dice la legge che le regola, per cui manifesti o manifestazioni sono finanziate anche coi fondi del gruppo, sì, sì. Mentre una volta, nella cosiddetta Prima Repubblica, della quale io comunque rimango nostalgico, erano finanziati spesso e prevalentemente dai partiti. In questa seconda Repubblica si è utilizzato di più la leva dei gruppi, però senatore Cutrufo, uno può dire questa è giusto che ci siano dei fondi destinati a questa propaganda, ma qui il problema, e sì, saranno anche casi personali, ma cominciano a diventare un po' troppi, è che, se li usavano per comprarsi le macchine, per mangiarsi le ostriche, per fare questo, ed è una vergogna. punto, non è che c'è bisogno di commentare oltre la realtà che vediamo sì. tutti quanti. Per esempio, avete però visto, avete visto i giornali? Sì. No, è chiaro, generale. Lei li ha visti i giornali già oggi o ieri da Gospia, ieri City, le ha viste le foto di queste festa che il consigliere regionale De Romanis dice ho pagato tutto di tasca mia, circa 20-30 mila euro, questa festa in tutto in costume, ancelle, gente vestite da maiale. Vestali, no, sinceramente no, non come no? Ma non l'ha vista ancora? No, non ho visto le foto sui giornali stamattina, non ho ancora avuto la possibilità. O sui siti internet, lo vedrò. C'è questa festa, la quale tra l'altro ha fatto una comparsata anche Renata Polverini, nella quale ci sono baccanali, feste greco-romane, vestiti tutti d'ancelle, chi gli uomini con la faccia da maiale che toccavano le donne. È una festa sobria per festeggiare, la festa, una roba che neanche in un film di Carlo Vanzina si vede, neanche nei peggiori film di Carlo Vanzina. Guardi, io ho incontrato 2 o 3 volte De Romanis nella qualità, cioè nella qualità di consigliere regionale, certo. che veniva a informarsi. Ecco, io se devo dare un giudizio su De Romanis, devo dire che è un ragazzo che ha studiato, una persona per bene, eccetera, eccetera, eccetera. E ho l'impressione che questo incidente che gli è capitato, ma che lui sostiene, io non lo so, ripeto, che ha pagato lui. Sì, sì, lui dice ho pagato tutto perché io. Perché uno è libero di fare quello che vuole, privatamente, diciamo così, no? Poi uno può dare giudizio, la festa è fatta, era una festa in maschera, evidentemente. Dopodiché però il ragazzo oggettivamente non è un cattivo ragazzo. Adesso purtroppo, ecco, e aspettiamo l'esito dell'indagine per quello che riguarda questo ragazzo, perché mentre per Fiorito mi sembrano più evidenti per il ragazzo. No, questo è l'aspetto trash della vicenda. Ma io vorrei chiedere, Sterino Montino, l'idea del verbale di Fiorito che secondo Repubblica dice io non rubavo, distribuivo, o l'idea del così fan tutti, lui attacca i suoi colleghi di partito, ma si potrebbe allargare a dire guardate che anche gli altri partiti è così, lei la respinge, lo accetta? No, neanche per niente, perché noi... I finanziamenti a disposizione come tutti i gruppi degli altri consigli regionali, come i gruppi parlamentari, perché poi dopo non è che c'è solo la regione Lazio, ovviamente stiamo parlando di un sistema complessivo, i nostri fondi sono quelli che noi abbiamo messo in rete, e abbiamo messo in rete non solo i titoli ma abbiamo messo in rete anche i destinatari, tant'è che l'enoteca, perché ci abbiamo la fattura, l'abbiamo messa in rete la fattura. I manifesti abbiamo messo in rete le tipografie che hanno fatto i manifesti. Una cifra che pare enorme, cos'è? 700.000 euro per manifesti. Sì, non è enorme perché noi abbiamo fatto, io mi sono fatto fare un po' la spunta, diciamo anche dei numeri, abbiamo fatto una cosa come circa 800 manifesti. 800 manifesti, 800.000 manifesti. 800.000, no, immaginavo, infatti 800.000, no, 800.000 manifesti, e naturalmente il manifesto bisogna contare non solo la stampa del manifesto, poi bisogna attaccarlo il manifesto, e quindi ci sono gli attacchini, poi ci sono le tasse da pagare nei manifesti, sì, quindi c'è tutta la procedura. Ora, è cosa diversa da quello che è successo. Quello che è successo nella PDL, cioè in questo caso di quello che è successo da parte di Fiorito. No, ma è chiaro, adesso ci sarà. Se è vero che Fiorito prende e fa bonifici e si porta via i soldi e se li porta in Spagna, ma d'altronde deve rispondere di un reato grave che è quello di peculato. Mi devo fermare qui e vi devo ringraziare Esterino Montino, il capogruppo del Partito Democratico alla Regione Lazio, e il senatore Mauro Cutrufo, il Popolo della Libertà, per essere stati con noi. Allora ci fermiamo, potete seguirci su Twitter 24 mattino oppure Alino Milan sono io, se volete seguirci su Facebook. Saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Domani vi lascio a Gigi Donelli, domani non ci sono, ma 24 mattino c'è alle 6:30, io ritorno lunedì, domani Gigi Donelli. Sesto degli Alpini.